ieri sera ha dichiarato che si sta divertendo. Allora, io non credo che Silvio Berlusconi in questi giorni si stia divertendo, altrimenti dovrei pensare che è un mostro, e non penso affatto che Silvio Berlusconi sia un mostro, molto più semplicemente penso che sia un bugiardo e che anche questa, che lui si stia divertendo, sia una bugia per rincuorare i suoi e per confermare nell'opinione pubblica quella percezione. Io sono tranquillo, non ho fatto niente di cui mi debba vergognare. Qui sta il punto. A me basterebbe quello che Berlusconi fa da qualche anno, non da sempre, solo da qualche anno, con decine di giovani donne maggiorenni, per considerare questo stile di vita non compatibile con l'incarico di portavoce degli interessi nazionali italiani. Non credo quindi che sia una questione che attiene soltanto al suo privato, penso che sia una questione culturale che riguarda l'Italia intera e che, siccome da questa inchiesta, dalle centinaia di voci che testimoniano, stiamo ormai a centinaia di voci che univocamente testimoniano questi comportamenti e questo stile di vita, comunque lo rendono ridicolo, perché oggi Berlusconi è coperto dal ridicolo, questo se resterà, è possibile che lui non sia disarcionato, è possibile che lui resti ancora per un anno o due anni Presidente del Consiglio dei Ministri di questo Paese, e questo però comporta per transizione logica implacabile che il ridicolo ricade sul Paese.